sono tanto convinto, ma fatto sta che un po' di tempo fa sono approdato qua a Firenze, grande città. Bella storia, senza troppo sforzo ci ho trovato da lavorare. Alla mia età, manco me ne va di stare troppo tempo a raccicà. Devo trovare una casa prima che posso, a un prezzo onesto. C'ho l'impressione che il problema è questo. I primi giorni mi assetto a casa di ND sul suo cosiddetto divano letto. Però fin dalla prima sera le zanzare del Mugnone fanno banchetto. Così non si può andare avanti e questo è certo. Tocca a cercare una buona zona, domani mi ci metto. Sull'Arno d'argento ci brilla il firmamento, ma se non c'hai un euro non c'è verso, tutto a pagamento. Sull'Arno d'argento ci brilla il firmamento, ma se non c'hai un euro non c'è verso, tutto a pagamento. Inizia la trafila, compro la pulce strapresto la mattina, ma mentre cerco la mia dritta penso minchia, qua vado in rovina. Vuoi qualche chicca? Così ti fai un'idea precisa. Singola, zona careggi con studenti spese non comprese, 400 euro al mese, come se fossi un turista giapponese. Al Ponte Rosso, microstanza, senza sua cucina, euro 350. Monolocale, centrale, tramite agenzia immobiliare, non te lo voglio neanche dire, puoi immaginare. Tocca cacciare, mezzo stipendio solo per rincasare. Sto a pensare che è una città di sadici, l'aperitivo nel wine bar figo costa euro 12, prezzi pagabili solo dai discendenti dei nobili, dei medici. Qua paghi pure l'aria che respiri, credici, finché non faccio 13 o vado in testa alla top 10, i tempi saranno acidi. Per ora torno da ND, dove anche se non si festeggia alziamo i calici. Sull'Arno d'argento ci brilla il firmamento, ma se non c'hai un euro non c'è verso, tutto a pagamento. Che tutto a pagamento. Sull'Arno d'argento ci brilla il firmamento, ma se non c'hai un euro non c'è verso, tutto a pagamento. C'era una volta una chimera, ora è una misera favola vera. Fa quella stima in Rio de Janeiro, colto solo se porti di nero. Nome dei poveri, solo fuori porta, nel salotto sgombro da tipi di strana sorta. Sbianiti i colori della gioia, la cupola del tuo è volta dalla paranoia. E su nel palazzo, vecchio come il cucco, siedono signori che mangiano a scroco. Un leviatano mai sazio, grazie al mio dazio. E ora chiedo una casa e uno spazio, spazio per chi organizza, spazio, spazio per chi valorizza. Come i pesci nell'Arno, Firenze stilica, frigida, museo di se stessa. Il 500 è andato ma la zuppa è la stessa. Firenze sei tanto bella ma costi un botto, e non mi basta la consolazione di un lampredotto. C'ho torto, sono incazzato come al G8. Comincio ad immedesimarmi in chi si sbraca sotto le logge di Piazza della Signoria, quello diventa il suo tetto. Sti prezzi non li ammetto, una città ridotta tutta a merce fa tristezza e ti senti in un ghetto. Beccare un alloggio a buon prezzo è peggio che andare come l'Hobbit con l'anello a liberare le terre di mezzo. Mi c'è voluto un pezzo ma non ho mai battuto in ritirata. Alla fine la storia è terminata e grazie a una culata la casa l'ho svoltata. Adesso abito in una casa con studenti di Grosseto che la C non l'hanno mai pronunciata. La morale della storia te l'ho cantata, Larsen ti saluta e ti rimanda alla prossima puntata. Sull'Arno d'argento ci brilla il firmamento, ma se non c'hai un euro non c'è verso, tutto a pagamento. Sull'Arno d'argento ci brilla il firmamento, ma se non c'hai un euro non c'è verso, tutto a pagamento.